Nuovamente in diretta, puntuali 8 e 6 minuti che scoccano in questo momento tra telefono e mixer. Ormai porto i passaggi durante lo stacco musicale o le pubblicità per avere i nostri ospiti anche solo un secondo in più in diretta con noi. E non si dica poi che gli uomini non sanno fare più cose in una volta. Ma bando alle mie divagazioni, io do il buongiorno a Michele Abbondanza. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Grazie per la levataccia, comunque ne vale la pena, dai, per i ticini. Grazie a voi, ho avuto più motivazione di alzarmi presto. Vedi mo', ecco che oggi io ho rischiato molto, ieri sera con DJ Set al binario 69 ho rischiato di arrivare non certamente puntualissimo, quindi insomma recuperiamo anche in questo caso con uno spettacolo che sarà domani alle ore 21, cioè sabato 20 gennaio, ITC Teatro, via Rimembranze 26 a San Lazzaro. Idem, io contengo moltitudini. E già dal titolo vorrei iniziare questa conversazione con te, Michele. Stai facendo appunto un'anticipazione, ne sei protagonista con la regia e non solo, e vorremmo saperne di più. A te la parola. C'è questa bellissima frase che poi ha ripreso anche Bob Dylan nella sua famosa canzone, che noi appunto citiamo anche come musica all'interno dello spettacolo, ma che Dylan ha ripreso da Walt Whitman, il grande letterato americano romanziere che ha raccontato tutto il mondo senza mai essere uscito da camera sua, e scrisse: io contengo moltitudini. Noi abbiamo dentro di noi, credo, ho questa sensazione, la possibilità di avere un'espressione che va al di là della nostra singola presenza, e attraverso questa modalità, quest'idea e soprattutto attraverso la danza abbiamo cercato di mettere quest'idea di essere mille in un corpo solo attraverso una gestualità particolarmente dura, espressiva, figurativa, certe volte anche robotizzata, in modo da creare quattro personaggi che raccontassero, secondo noi, gli elementi così strutturali di solitudine e di schizofrenia della società d'oggi. Ne è nato, come sempre, ormai abbiamo il timer, uno spettacolo di un'ora, non so come mai, è sempre di un'ora lo spettacolo. È vero, fa ridere anche le cosa, presentazioni letterarie, se ti può ma consolare, scusa, è un'ora. Proprio precisi, uno al massimo c'è 55 minuti, un'ora e 5, se c'è la adesso pubblicità. Abbiamo il timer. Ecco. Capito. Ecco, esatto, potrebbe essere una buona idea. E quindi tra l'altro è uno spettacolo che ha 2 anni ormai, e nel frattempo il progetto è andato avanti con il lavoro Femina, che ha avuto anche grandi soddisfazioni l'anno scorso e quest'anno, e il lavoro Viro, che è la versione, diciamo, rispettivamente femminile e maschile di questo progetto di dare più forme attraverso proprio una immediata esecuzione fisica, e non è una questione solo mimica, ma è una questione di aver creato quattro personaggi particolari attraverso i quali in un'ora di spettacolo mettiamo lì anche tutta una serie di provocazioni e elementi, come dire, proprio energetici, scenici, particolarmente forti, musicali e anche proprio, come dire, speriamo anche poetici, che poi è quello un po' il messaggio finale. È un filo conduttore basic che ti può servire per raccontare, ma dietro il racconto, dietro il gesto, c'è sempre la voglia poi di raccontare altro, che è quello che poi farebbe appello all'immaginazione, al fatto dell'andare a teatro per la condivisione, per partecipare ad un rituale che avviene in diretta, uno dei pochi rituali, a parte lo sport e la musica, ma che in qualche modo, come dire, soddisfa orecchi e cuore, ed è molto importante, però la musica la possiamo ascoltare anche con gli occhi chiusi. Qualcuno diceva: la musica è cieca, no? Nella meraviglia di questo, come si può dire, forse che la pittura potrebbe essere in qualche modo muta, potrebbe essere silenziosa, si dice infatti in determinati aspetti artistici, e qui viene fuori il giovedì in mostra di Radio Città Fujiko, in silenziosa conversazione, quando è palese che c'è una conversazione tra due soggetti che vengono ripresi su una tela, è un aspetto con queste caratteristiche. Però vedi, con l'eterogeneità che abbiamo voluto, che hai voluto portare con idem io contengo multitudini, mettiamo assieme tutto ciò se vogliamo, ecco, ed è esatto. Una caratteristica molto importante, con le peculiarità del teatro, come diceva Proietti, dove tutto è finzione ma che è assolutamente sincero e vero, ed è buona la prima. Questa è un'altra caratteristica bravissimo, fondamentale per quanto riguarda il teatro, soprattutto quando il teatro diventa soprattutto un teatro, come dire, di movimento, dove non c'è una parola o ci sono dei suoni, e quindi lì la sintesi è ancora più completa, deve avvenire tutto attraverso la carne. Come diceva il saggio, il coreografo è uno forse dei pochi artisti che riesce a mettere assieme la carne e lo spirito nel momento in cui avviene il suo segno in diretta, e in qualche modo trascendendo per un attimo quando il gesto è grande, poetico, universale, e parla infatti a tutte le lingue, trascendendo un attimo il limite che ha il corpo, no? Certo. E attingendo a quella cosa che possiamo chiamare spirito, Dio, angelo, invisibilità, eccetera, e che per quell'attimo ti metti in una comunicazione magica, che potrebbe essere appunto una comunicazione artistica, che va anche oltre a quella religiosa, a quella spirituale. E ne dà concretezza a tutto ciò, a tutti questi aspetti, ne dà concretezza. Sì. Ascolta, sì. Possiamo fare uno stacco musicale? Puoi restare altri 5 minuti qua con noi? Sì, 5 minutini, ho portato un brano. Secondo me è molto bello. Gitano, Gaglia Benali, Etmna, il brano è Wild Arissa, ce lo ascoltiamo. Torniamo in diretta con Michele Abbondanza per ITC Teatro, idem Io contengo moltitudini, domani alle ore 21 sul palcoscenico di San Lazzaro. A tra poco. Play. ha una voce molto particolare, aggiungiamo queste sonorità manouche che vanno incontro a un filo conduttore gitano che mette assieme tra il flamenco e le sonorità tipiche appunto di un, se vogliamo, anche modern jazz, per questo brano che sta ancora andando come base per Gallia Benalì. Network Record che si occupa di esplorazioni nel mondo per questi suoni. Michele, ci sei? Ci sono, certo. Bello questo pezzo, bellissimo. Grazie, ho voluto portare un po' una playlist atipica quest'oggi, ho ricercato nel mio mobile dei vinili, dei CD per riuscire a dare anche altri suoni, oltre che le emozioni che portate, direttori artistici, attori, registi per la rubrica in scena. E allora continuiamo la nostra conversazione a proposito di Idem. Io contengo moltitudini, titolo, ok, adesso hai svelato ed è quanto mai azzeccato, e concludiamo parlando anche di quello che è un palcoscenico. Come sarà strutturato? Ci puoi dare qualche anticipazione senza poi ovviamente rivelare troppo, Michele? Il palcoscenico, sì, ma sai, nella parola stessa, perché uno spesso non ci pensa, però il palco è qualcosa che no, quando uno, anche da noi si dice non mettere su questo palco, cioè sì, non fare scena, cioè il palco è qualcosa, è un gradino che porta la tua figura un pochino più in alto in modo che la gente ti possa vedere. Questo dà già una grande responsabilità a chi va su questo palco, no? E poi ci sta chi va per politica, chi va per interesse, chi va per vendere, chi va per funzionare. C'è chi si mette in mostra come noi danzatori per un po' la voglia di mettersi in mostra, ma che non deve mai superare il fatto di voler comunicare attraverso la propria arte una verità che è la tua, dell'esecutore, ma anche quella dell'autore stesso. È un tipo di arte, e questo un po' di questo lavoro si vede, in cui, come dire, l'autore corrisponde all'opera e quindi instaura sul palcoscenico, come mi chiedevi te, questo tipo di relazione speciale, quando scatta quel meccanismo magico che è appunto la relazione teatrale. Io che ti guardo so che tu stai facendo finta, però no, nonostante questo, ma guarda che siamo dei creduloni, e nonostante questo noi riusciamo a far passare che questo gruppo di persone sono su una nave, sono su un treno, viaggiano con parti, soffrono di claustrofobia, litigano, lottano, mangiano, defecano, soffrono, respirano, soffrono, scopano. Meno male. Ma sì, per fortuna, ogni tanto esiste ancora. E ogni tanto, ha detto anche il Papa, pensa, per lui, guarda, siamo autorizzati anche noi. Io da credente mi allineo perfettamente. Saggiamente. E quindi in questa condivisione, attraverso questo palcoscenico, attraverso un uso dello spazio, come spesso facciamo, è anche indispensabile per la danza, uno spazio vuoto, come diceva Peter Brook nel suo famoso libro, lo spazio vuoto, e attraverso questo spazio vuoto costruiamo le varie scene, perché cerchiamo di fare arrivare le cose attraverso l'immaginazione, non attraverso una struttura precisa che c'è lì. Un muro si può immaginare molto meglio se non c'è, ma se riesci ad evocarlo con il corpo, piuttosto che metterlo lì in una orribile cartapesta riconoscibile come proprio come di tutto fuorché un muro, ecco. Certo. Cioè andare, ma io credo che in genere l'arte, no? Ognuno di noi, anche nelle nostre faccende quotidiane, cerchiamo sempre un po' la bellezza, cerchiamo, guai se non fosse così, no? Quindi chi viene a teatro cerca un po' questa cosa. Noi ci abbiamo dedicato, non so se ci siamo riusciti o no, tutta la nostra energia, diciamo ormai tutta la nostra vita, io e Antonella Bertoni siamo del secolo scorso ormai, e siamo contenti di portare un po' la nostra testimonianza e di quello che abbiamo fatto, sia di quello che continuiamo a fare, a quanto pare riuscendo un po' sempre a come si dice, buttare un po', certe volte buttiamo solo il furgone e andiamo avanti, altre volte buttiamo lo schermo, la quarta parete, come si chiama, come si dice, parte, no? Dove si va verso il sipario, certo. Quindi spazio vuoto per lasciare spazio appunto, scusa la ripetizione, all'immaginazione, e un idem proprio, a differenza poi degli altri lavori dove invece c'è uno schermo in femmina. Adesso in giro non so cosa ci sarà, cominceremo le prove tra una settimana, sarà un duo maschile. Invece idem è un quartetto, sì, è nato tra il resto con quattro danzatori stupendi che ho proprio visto dopo tanto tempo, perché era da un bel po' che non lo facevamo, e lo spettacolo quindi abbiamo dovuto in qualche modo riallestirlo, stiamo provando già da qualche giorno in modo da arrivare belli pronti a Bologna e presentare il lavoro bello in spolvero. E sono quattro danzatori straordinari. Di per loro, ma poi insomma insieme siamo riusciti a costruire questo meccanismo a orologeria che è idem 60 minuti che tolgono il fiato, non nel senso di bretto, di bello o di brutto, questo lo faremo dire a chi guarda, ma toglie il fiato per proprio il tipo di ritmo e di sincope che c'è, continua. E fisicamente mi sono accorto che fisicamente è una maratona, per cui arrivano distrutti come si confà a corpi generosi che danno tutto quando sono in scena. Quindi ecco, niente, insieme ad Antonella Bertoni e spero che sarete nostri ospiti di sabato al mitico teatro di San Lazzaro, che siamo andati nell'Angelo, scusate. No, il TC Teatro di San Lazzaro, vedi? È giusto, no? Vero? Certo, hai detto bene. Capita anche a me di correggermi su delle cose giuste che dico, quindi va benissimo. Sì, sì, assolutamente comprensibile. Il TC Teatro di San Lazzaro. Esatto, questa è una specie di lingua a quest'ora, ecco. E poi hai parlato del pubblico, ricordiamo che a seguire ci sarà l'incontro con la compagnia e prima dello spettacolo alle 19:30 aperitivo con le parole del teatro. Io ti ringrazio per aver, oltre che per questa conversazione, per aver accennato anche al lavoro della compagnia Abbondanza Bertoni. Magari, siccome ci siamo già sentiti io e te, avremo modo di risentirci, sì, io mi ricordo, avremo modo di risentirci e parleremo, daremo spazio anche a un lavoro generalizzato della compagnia Abbondanza Bertoni. E io ti ringrazio tanto. Benvenuti grazie a Bologna. Buon lavoro. Buon viaggio. Buon lavoro, viva la musica, viva la bellezza. Grazie. Ciao Michele. Buona mattina a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Stavo facendo i saluti fuori onda, è saltato il CD. Perché improvvisamente l'ho visto a poco tempo dal termine. Comunque ok, spero di no, anche per dare una estetica radiofonica alla nostra rubrica dedicata al teatro. No, non sa. No, salta invece. Eccolo qui, lo sapevo io. AIM mi hanno tradito con Another Summer, il brano che lascio per qualche secondo sperando che non faccia nuovamente il ballerino, per andare in pubblicità, risentirci tra pochissimo sempre con la rubrica In Scena sui 103.1 di Radio Città Fulgico. Anzi, lo cambio sperando che non... Ecco, sentiamo un po'. A tra poco, In Scena!